Salmi 3 e 4. O Signore, come si sono moltiplicati i miei oppressori, molti si levano contro di me. Molti sono coloro che dicono della mia anima, non c'è salvezza per lui in Dio. Ma tu, Yahweh, mi sei scudo all'intorno, sei la mia gloria e mi sollevi il capo. Se a Yahweh io lancio il mio grido, egli mi risponde dal suo monte santo. Io mi corico e mi addormento. Mi sveglio ed ecco, Yahweh mi tiene per mano. Io non temo le miriadi di genti appostate contro di me dappertutto. Sorgi, o Signore, salvami, Dio mio. Sì, colpisci tutti i miei nemici alla mascella. I denti dei malvagi spezza. Al Signore appartiene la salvezza. Sul tuo popolo sia la tua benedizione. Quando io grido, rispondi, mio Dio, della mia giustizia. Nell'angustia hai fatto spazio a me. Abbi pietà di me e ascolta la mia preghiera. Figli dell'uomo, fino a quando la mia gloria finirà in disonore, e voi amerete la vanità, cercherete la menzogna? Sappiate che ha fatto prodigi il Signore per il suo fedele. Il Signore ascolta quando io grido verso di Lui. Fremete, ma non peccate. Parlate nel vostro cuore sul vostro letto e fate silenzio. Sacrificate sacrifici di giustizia e confidate nel Signore. Molti dicono: chi ci farà vedere il bene? Volgi su di noi la luce del tuo volto, o Signore. Hai infuso gioia nel mio cuore più che al tempo in cui il loro grano e il loro mosto abbondano. In pace al tempo stesso mi corico e mi addormento, perché soltanto tu, o Signore, al sicuro mi fai riposare. Pace e gioia a tutti. Ho tenuto presente le traduzioni di Fiorenza Monti Amoroso e quella di Monsignor Gianfranco Ravasi nel suo commento al Libro dei Salmi, volume primo, edito nel 1985 dalle Deoniane di Bologna. Ho letto i Salmi 3 e 4 insieme, poiché andrebbero raccolti in dittico, secondo Monsignor Ravasi, e considerati insieme. Il primo è come un oscillare continuo tra il lamento e la fiducia in Dio. Secondo tutti i commentatori, la cornice cronologica, costituita e rappresentata dalla notte, ha la funzione di descrivere il tempo interiore del credente, diventa dunque cifra simbolica della sua vicenda psicologica e religiosa. Scrive Monsignor Ravasi: al sorgere minaccioso dei nemici, in ebraico kum, si oppone l'intervento di Dio, che solleva, rum, il capo del suo fedele, il quale perciò a testa alta celebra il suo trionfo. Quest'ultima immagine, di stampo militare e giuridico, ha favorito la rilettura pasquale cristiana, secondo lo schema dell'esaltazione del servo di Yahweh. Il Cristo, umiliato nella sofferenza e nella morte, viene innalzato nella gloria divina. Da pietra scartata diventa architrave indispensabile. Vedi Salmo 118, versetto 22, e Matteo, capitolo 21, versetto 42. Sale allora a Dio la preghiera del fedele, una preghiera ancorata, secondo lo stile della fiducia biblica, alla certezza dell'esaudimento. Il verbo usato per indicare questa invocazione è quello energico del kara, il grido appassionato e lacerante del perseguitato. Non è un grido che cade nel silenzio. Scriveva Agostino in margine al Salmo 103, versetto 2: leva la tua voce, per ascoltare in profondità il tuo essere, c'è sempre qualcuno, Dio. La risposta divina ha i connotati cultici d'un oracolo. Essa infatti parte dal Santo Monte, il classico simbolo verticale della trascendenza divina applicato al colle di Sion, sede della presenza divina. Tempio celeste e tempio terrestre sono uniti da un unico asse che collega cielo e terra. Attraverso la risposta oracolare del sacerdote nel tempio, si ode la voce stessa di Dio, fonte di speranza e di liberazione. Inizia così quel processo di sacralizzazione della preghiera individuale che finora abbiamo ascoltato. D'ora innanzi lo sfondo sarà quello più specifico della liturgia del tempio. L'orazione viene collocata nel respiro orante che tutto Israele eleva a Dio ogni volta che accede al culto di Sion. Del Salmo 3, sempre, mi preme qui riportare la spiegazione offerta da Monsignor Ravasi al versetto 6, che è quello che poi collega direttamente alla tematica della fiducia profonda del fedele manifestata dal Salmo 4. Scrive Ravasi: «Mentre attorno all'orante fluisce la tempesta del male, mentre l'assedio fatale della notte si ramifica, Dio veglia e fa spuntare l'aurora della salvezza». Il fedele, simile a quello che ha composto il Salmo 4, in pace coricato e addormentato, e vedremo nella traduzione tra poco come questo richiami appunto il versetto 6 del Salmo 3, al mattino, tempo classico dell'esaudimento per la Bibbia, vedrà che il Signore lo tiene per mano, secondo il senso del verbo samak, usato appunto nella seconda parte del versetto 6. Dicevo del Salmo 4 al versetto 9: «Tu, Dio, soltanto mi fai riposare al sicuro». Ecco, questo versetto 9 illumina il senso del verbo utilizzato nel Salmo 3 al versetto 6, il verbo, ripeto, samak. Qui si capisce perché il credente sperimenta nella notte del male che lo avvolge il Dio vegliante, il Dio che veglia e che dà sicurezza tenendolo per mano. Quel soltanto, levad, Dio è colui che fa riposare il suo fedele solo in condizione di sicurezza. Dio che non solo gli sta accanto, ma addirittura gli ha tenuto lungo tutta la notte la mano. Ciò è tanto più evidente, afferma Ravasi, se si pensa alla venatura di angoscia che attraversa trasversalmente il Salmo 4 e che è solo funzionale, però, al simbolo della notte, avendo lo scopo di far risaltare più nitidamente la gioia della fiducia. Il Salmo 4, di fatto, è contemporaneamente immerso in un'atmosfera di pace e di serenità, dominata dalla fiducia in Dio. L'orante è ormai un testimone privilegiato dell'amore di Dio e il suo messaggio di fiducia passa intatto anche attraverso il freddo e l'oscurità della notte. Il Salmo resta la testimonianza di una coscienza pura e serena. Le sue parole si trasformano in un inno alla letizia interiore, mentre sul velo della notte si stende brillante la luce del volto del Signore, al versetto 7, segno della sua presenza amorosa e dialogante. Certo, dice Ravasi, questo orante che è singolo e che esprime un'esperienza personale può dare voce a quanti come lui pongono la loro piena fiducia in Yahweh. Il termine che ritorna al versetto 4, Hasid, pio, santo, divenne anche designazione caratteristica di gruppi di fedeli particolarmente osservanti, gli Hasidei, Hasidim. Questa voce personale ma anche corale, distesa su una trama elementare di pensieri e di sentimenti, ha una lucida passione ideale, la fede in Yahweh, unisce la grazia misteriosa della poesia, il prestigio della semplicità nella scrittura, la capacità di trascinare e di commuovere. Ecco, di questo salmo mi sta a cuore sottolineare al versetto 2 il termine ebraico shar, che sta per angustia e che evoca contemporaneamente l'immagine di tipo spaziale nomadico, in contrapposizione all'antitetico rb, rhb, che ha significato di ampiezza, alla ristrettezza di una città o di un villaggio in cui si è rinserrati entro le mura, si oppone la libertà della campagna aperta e della steppa spaziosa e solitaria. Nel libro della Genesi, Isacco, giunto a Rehoboth, dove ritornano appunto le tre consonanti RHB, offre una curiosa etimologia eziologica del toponimo. Ora Yahweh ci ha dato spazio, perché noi abbiamo a prosperare nel paese. Genesi 26:22. Anche oggi, ricorda Ravasi sempre, il saluto arabo più caloroso suona ancora oggi così: Marhban bika, Allah ti renda spazioso. Il verbo è ancora lo stesso di quello di Genesi e allude alla fortuna e alla felicità che accompagnano il nomade che ha di fronte a sé le libere distese del deserto, dei monti e delle campagne. Questa esperienza fisica, l'esperienza della spazialità estesa, scrisse Luis Alonso Schöckel, serve all'uomo per elaborare esperienze non fisiche, mentali, sentimentali, religiose. Nell'interpretazione del biblista spagnolo Asensio, Yahweh salverebbe il suo Hasid, figura eminente e di prestigio, dalle accuse orchestrate dai notabili, Bene Ish, non in un processo giudiziario sacro, ma in una pubblica campagna di diffamazione. Le menzogne alluderebbero appunto a questi attacchi calunniosi. Scrive l'esegeta spagnolo: la supplica del nostro Hasid davanti alla campagna di menzogne nella quale si sente avvolto non è un ricorso al Yahweh, giudice inappellabile di altre occasioni, ma una chiamata al Dio onnipotente e benefico che, come suo Hasid, lo ha sempre liberato da tante angustie e ora non può lasciarlo alla mercé dei Bene Ish, i suoi nemici, ostinatamente impegnati in un Rik Kazab, campagna di menzogne, di respiro pubblico e di rivolta. L'espressione talmudica Hasid lo, il suo fedele, è stata conservata nella traduzione dei 70 e dalla Vulgata. Altri però preferiscono leggere Hashdo li, come nel Salmo 17 il versetto 7 e in quello 31 il versetto 22. La sua misericordia è con me. Sia come sia, questo termine è molto suggestivo perché traccia sinteticamente l'ineffabile complessità del rapporto tra Dio e l'uomo. La radicale hast, HSD, applicata sia a Dio sia all'uomo, esprime un ventaglio di sentimenti e di relazioni che toccano la volontà, l'amore, la passione, la conoscenza e l'azione. La resa misericordia o fedeltà è perciò fortemente semplificatrice e il vocabolo deve essere accostato ad altre definizioni di questo rapporto trascendente. Si pensi a Shadik, giusto, o a Ebed, servo. Questo Hasid invita i suoi interlocutori a sapere, il verbo tipico della professione di fede. Il suo è allora un appello alla fede, perché è solo attraverso questa conoscenza che si riesce a penetrare nel mistero dell'azione di Dio nella vita del giusto. In lui Dio compie due operazioni, lo ricolma di prodigi e lo ascolta. Il verbo plh, PLH, evoca i prodigi dell'esodo, tipi della salvezza piena. Ai dubbiosi e agli uomini in crisi, il salmista fa balenare non solo l'assurdità del ricorso agli idoli freddi e morti, ma propone, contro tutti i surrogati, l'autenticità della vera fede. Non è l'uomo che salva, né la superstizione, né le manovre umane, è solo il Signore vivo e operante nella storia. Questo Signore che è persona può ascoltare, diversamente dagli idoli. Il tema personale dell'ascolto è un luogo classico nella polemica anti-idolatrica ed è sceneggiato vigorosamente nella grande ordalia del Carmelo preparata da Elia, primo libro dei Re, capitolo 18. Gli idoli invece hanno orecchi e non odono, come dice il Salmo 115 al versetto 6 e altri. E concludo sottolineando particolarmente il versetto 7, un versetto, scrive Ravasi, colmo di luce. Nell'aria si leva una domanda che attende una risposta. Essa è lanciata da tutti coloro che, insoddisfatti della loro miseria, cercano una soluzione al senso dell'esistenza. Chi ci farà vedere il bene? Tob. Il termine Tob abbraccia un arco semantico vastissimo. Ha connotati etici, estetici, personali e intellettuali e per questo può esprimere la totalità positiva dell'azione salvifica di Dio. La risposta, per l'orante, è una sola ed è espressa attraverso l'antica metafora del volto luminoso e benevolo di Dio. La nostra vera felicità è la luce della rivelazione divina. Un commento ideale al nostro versetto, che è quasi il testamento dell'autore Hasid, potrebbe essere il Salmo 17,15. Io per la giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua presenza. E abbiamo così i versetti finali, 8 e 9. L'orante chiude la sua lirica con un finale maestoso. In esso ci offre quasi un profilo autobiografico. Una vita serena e felice deposta nelle mani del Signore. La pace interiore è infinitamente superiore ad ogni altro bene. La notte scende, ma il cuore è colmo di gioia e di speranza e attende lo schiudersi luminoso di una nuova giornata. Io sono tranquillo e sereno, diceva il Salmo 131, versetto 2, come il bimbo svezzato in braccio a sua madre. Come un bimbo svezzato è l'anima mia. La gioia, Simchah, e la pace, Shalom, sono i due sentimenti che reggono i due versetti. La gioia è misurata su una metafora di tipo agricolo. Essa prepara la pace, Shalom, del versetto 9, che è spesso dipinta nella Bibbia con una simbologia agricola, il cui valore è mistico. Il clima è perciò quello del Salmo 16,11. Mi mostrerai il sentiero della vita, gioia piena davanti al tuo volto, delizia senza fine alla tua destra. E conclude Ravasi, sulla filigrana del nostro Salmo si snoda anche una dolce preghiera serale usata dalla sinagoga. È un dono della tua santa volontà, o Signore, che io posso coricarmi in pace e svegliarmi nello stesso stato. Fa che il mio sonno non sia turbato da sogni terrorizzanti o da visioni impure. Fa che il mio riposo sia quello dell'innocenza e, trascorso il tempo del sonno, restituisci la luce ai miei occhi, senza farmi dormire nel sonno della morte, perché sei tu che dai la luce alla pupilla dei miei occhi. Benedetto sei tu, o Eterno, che illumini il mondo con la tua gloria. Il piccolo Carme si trasforma allora in un messaggio di grande abbandono e di speranza che potrebbero essere racchiusi in una felicissima espressione del commento al Salmo 30 di Agostino. La frase ci farebbe recuperare anche l'immagine dello spazio aperto che ha dominato il Salmo in apertura. Sia Lui, Dio, dopo questa vita, il nostro luogo.